Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Sanità per quasi tutti. Passata nella notte la riforma voluta da Obama, che commenta: siamo ancora capaci di grandi cose. Arrestato nella notte il nuovo capomafia di Palermo, considerato l'erede di Lo Piccolo. Oggi la giornata mondiale dell'acqua, patto fra oltre 200 sindaci emiliani per promuovere l'uso dell'acqua del rubinetto. Il mea culpa di Tiger Woods in TV: vivevo in un mondo di bugie. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Nella notte, come ormai sapete, il sì della Camera alla riforma sanitaria negli Stati Uniti. 219 voti contro 212. Dopo una giornata interminabile, quattro sessioni di voto, dopo mille polemiche, ritardi e colpi di scena, la Camera ha passato nella notte la storica riforma della sanità in America. Per il presidente Barack Obama si tratta di una vittoria chiave che dà finalmente concretezza alla sua visione di cambiamento con cui si è aggiudicato la Casa Bianca nel 2008, una vittoria che certamente rilancia la sua leadership politica, anche se potrebbe indebolire a breve per le elezioni di novembre il partito. Molti deputati democratici che hanno votato oggi per il sì pagheranno forse con il seggio la loro scelta politica. La maggioranza è stata raggiunta agevolmente. Alle 10.45 ora locale, il voto 216. L'Aula, divisa fino a pochi minuti prima da un confronto teso coi repubblicani su certe normative procedurali, è esplosa in un'ovazione. Ma al di là delle procedure, dei numeri, delle battaglie, dei colpi di scena, da oggi resta una verità inconfutabile: l'America avrà un'assicurazione sanitaria quasi universale. 32 milioni di cittadini che oggi non sono coperti avranno accesso alla copertura medica. Bambini con malattie congenite che non potevano essere assicurati saranno coperti. Lavoratori che, cambiando il posto di lavoro, rischiavano di perdere l'assicurazione medica non correranno più quel rischio. Questo per dire che la riforma ha un respiro molto più vasto del semplice allargamento di una base di assicurati, ma toccherà letteralmente tutto il paese, segnando una nuova pietra miliare nel cammino dell'America verso il progresso sociale. Da New York, Mario Platero, GR24, il sole 24 ore. E della riforma sanitaria americana passata nella notte torneremo a parlare in America 24 in onda alle 13.45. E rimpasto di governo in vista invece in Francia, dopo la batosta al secondo turno delle regionali per il presidente Sarkozy. Nicolas Sarkozy e la destra francese ieri certamente non hanno passato una buona serata. La sinistra infatti ha stravinto le elezioni regionali, portando a casa 23 regioni su 26. Numericamente poi la debacle è da no comment se si considerano i quasi 20 punti percentuali che separano la gauche dalla destra, e questo solco scavato dagli elettori porterà quantomeno a un rimpasto di governo. Sarkozy e il premier François Fillon si sono incontrati all'Eliseo per valutare il da farsi, e le indiscrezioni sui ministri in uscita si moltiplicano. In attesa di vedere se si tratterà di un rimpasto importante o solo di un ritocco all'esecutivo, è certo però che molti conservatori rimproverano a Sarkozy la sua apertura a sinistra. È uno strabismo a gauche che gran parte della destra vorrebbe correggere. Igor Fiatti, GR24, il sole 24 ore, Parigi. E torniamo in Italia con le nostre regionali ormai alle porte. Elisabetta Fiorito. Sì, l'ultima mossa del premier in campagna elettorale è una lettera agli elettori per le regionali. Berlusconi ne è sicuro: nel Lazio riusciremo a prevalere sui nostri avversari, che avrebbero preferito correre soli, proprio come si usava nelle democrazie popolari sovietiche. Intanto questa mattina nella rete regionale del Lazio, primo confronto tra le due candidate, Renata Polverini ed Emma Bonino, stretta di mano e bacio sulle guance per iniziare. Poi però il dibattito si infervora sulla sanità. Sentiamone un passaggio. Non taglio posti letto. Guarda, questo l'ha deciso il governo, lo ha deciso il governo. Io rinegozio, io rinegozio il piano, quindi, e nessuno guarda, mi ha smentito in questo. Ma tutti rinegoziamo e comunque non tutto, lo ha deciso però... il governo, perché fino a 6 mesi fa il commissario si chiamava Piero Marrazzo. Bisogna farne uno nuovo. E io l'ho presentato, voglio fare stati generali, lo presento. Ma non è che è il libro dei sogni il nuovo piano? Libro assolutamente possibile, nell'interesse della salute dei cittadini. Il piano va presentato in base alle linee guida stabilite dal tuo governo il 3 dicembre. Io rinegozierò con gli stati il piano e quel questo piano... è il mio piano alternativo. Intanto tutta l'opposizione, Pierluigi Bersani del Partito Democratico, Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori, Pier Ferdinando Casini dell'UDC, chiede un confronto televisivo con Berlusconi, ma il Premier continua a dire di no e per il momento qui da Roma è tutto per studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito, ora invece l'inchiesta Rai Agicom, le ultime novità da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è arrivato questa mattina nella capitale, così come previsto, il fascicolo della Procura di Trani con le intercettazioni del Presidente del Consiglio in riferimento alle telefonate fatte al commissario dell'Authority per le comunicazioni innocenti sulla trasmissione Anno Zero. Dalla Procura di Roma i documenti saranno quindi inviati al Tribunale dei Ministri, che dovrà decidere se far proseguire l'inchiesta o archiviarla. La Procura pugliese ha quindi rispettato il termine di 15 giorni previsto dalla legge per trasmettere gli atti relativi al Premier all'ufficio giudiziario territorialmente competente. Il plico inviato nella capitale dai magistrati di Trani contiene le trascrizioni delle 18 conversazioni telefoniche intercettate indirettamente a Berlusconi sino al 28 dicembre dello scorso anno. Riunione oggi intanto tra i vertici della Procura di Trani e i funzionari della Digos di Bari per fare il punto sulle indagini relative alla fuga di notizie legate all'inchiesta, inchiesta che vedrebbe indagati al momento due giornalisti di Repubblica. E da Roma è tutto. Grazie anche a te Vincenzo Miglietta, e sta rispondendo alle domande del giudice di Bari l'ex vicepresidente della giunta regionale pugliese Sandro Frisullo del PD, arrestato come ricorderete giovedì scorso nell'ambito di un troncone d'inchiesta sulla sanità pugliese con le accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e turbativa d'asta. Parliamo invece di mafia, un altro importante arresto a Palermo. Secondo magistrati e guardia di finanza sarebbe il successore dei boss Salvatore Sandolo Piccolo alla guida di una delle famiglie mafiose più importanti di Palermo. E così, dopo aver riscontrato le dichiarazioni dei più recenti collaboratori di giustizia che avevano consentito di eseguire anche l'operazione Perseo, le fiamme gialle hanno arrestato un architetto, Giuseppe Liga, 59 anni, esponente regionale del Movimento Cristiano Lavoratori. Liga è accusato di associazione mafiosa ed estorsione. Secondo le fiamme gialle, l'architetto avrebbe gestito il patrimonio dei Lo Piccolo subito dopo l'arresto di costoro, incassando il denaro ricavato dall'imposizione del pizzo a commercianti e imprenditori del capoluogo siciliano. Nell'ambito dell'operazione che ha portato in cella Liga è stata sequestrata una società e sono stati arrestati due imprenditori ritenuti prestanome dell'architetto, Agostino Carollo e Amedeo Sorvillo, e il cognato del boss Inzerillo, ucciso nella guerra di mafia degli anni Ottanta, Giovanni Angelo Mannino. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Sono ripresi gli sbarchi a Lampedusa. Nella notte un gommone carico di immigrati è stato raggiunto dai soccorsi nel canale di Sicilia. I dettagli dal comandante della Guardia Costiera di Lampedusa, Antonio Morana, al microfono di Adriana Fracchia. Si tratta di 60 immigrati, nazionalità mista, però sono ancora in corso le indagini per accertare la nazionalità, somali, eritrei e pakistani. Dove si trovavano esattamente? 30 miglia a sud di Lampedusa, acque sarmaltesi, però acque internazionali. Uomini e donne? Sono 59 uomini e una donna in stato interessante. Le loro condizioni generali sono buone, 5 hanno avuto bisogno di cure sanitarie qui presso il poliambulatorio di Lampedusa, 2, un uomo e una donna, sono stati trasportati con elicottero a Palermo, mentre gli altri 3 sono stati rimbarcati sulla nostra unità per Porto Empedocle. E ci sono vittime? Non ci risultano vittime, non hanno dichiarato di avere avuto delle vittime nel corso della navigazione, né tantomeno sono state rinvenute a bordo del gommone. Dicono di essere in mare da 5 giorni. E sono stati loro a chiamare con un telefono satellitare per attivare il dispositivo di soccorso. Gli immigrati hanno ora il loro istituto di credito, si chiama Extra Banca e sta per aprire i primi sportelli a Milano e in Lombardia. Vicepresidente l'imprenditore immigrato dal Camerun Otto Bitioca, presidente Andrea Orlandini. Lo ha intervistato Valentina Furlanetto. Gli immigrati sono già il 6% della popolazione italiana e secondo le proiezioni sono destinati a raddoppiare entro il 2025, quindi un trend importante Secondo aspetto è la crescente capacità reddituale, perché man mano che si integrano nel tessuto sociale ed economico iniziano a svolgere lavori più redditizi, come è successo un po' agli italiani quando sono emigrati 100 anni fa all'estero. Il suo vicepresidente è una persona di origine camerunense, così? Sì, noi siamo convinti che il successo del progetto dipenderà dalla nostra capacità di individuare una squadra di stranieri, oltre che di italiani, desiderosi di dimostrare a tutto il mondo quello che valgono. E quindi, a partire dal vicepresidente, abbiamo voluto connotare l'azienda con la presenza degli stranieri. Attualmente il 55% dei dipendenti sono appunto stranieri. Chi entrerà in filiale da noi troverà un contesto in cui si parlano 11 lingue. Non mi viene in mente nessun'altra banca in Italia dove accada una cosa di questo genere. Maggiori approfondimenti su Extra Banca in onda domenica prossima in Figli di un Dio Minore alle ore 14:15. È un nomade pescarese di 23 anni, già noto alle forze dell'ordine, l'autore del pestaggio nella notte ai danni di un coetaneo di Foggia. Lo avrebbe ridotto in fin di vita per futili motivi fuori da un locale di Pescara. E ora invece torniamo a Roma, perché è quinto giorno consecutivo di parziale blocco delle auto nella capitale contro lo smog. Sentiamo dunque come sta andando da Andrea Viali. Sì, Piara, ti parlo, mi trovo in questo momento a pochi passi dalla stazione Termini, almeno qui dobbiamo dire che non sembra avere un grosso impatto, diciamo, in termini di riduzione del traffico. Questo blocco della circolazione, che è iniziato alle 7:30, riguarda la cosiddetta fascia verde, si concluderà alle 20:30 e riguarda solo i mezzi più inquinanti, cioè tutti quelli Euro 0 ed Euro 1, ma anche gli autoveicoli diesel Euro 2. È stato deciso questo blocco perché anche ieri in alcune delle centraline di rilevamento dell'inquinamento atmosferico che sono sparse per la città si sono registrati dei valori di polveri sottili, di PM10 superiori ai limiti di legge. Quello di oggi, come dicevi, è il quinto giorno consecutivo di blocco della circolazione per i mezzi più inquinanti nel territorio di Roma, dove ora si spera anche nella pioggia il cielo è coperto per ridurre lo smog, i cui livelli sono aumentati soprattutto a causa delle condizioni meteo che fino ad oggi hanno favorito il ristagno di sostanze inquinanti nell'aria. Per ora da Roma è tutto. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della riforma sanitaria passata nella notte negli Stati Uniti. Obama ha commentato: siamo ancora un popolo capace di grandi cose. Poi abbiamo parlato della Francia, perché Sarkozy si dice pronto al rimpasto dopo la sconfitta al secondo turno delle regionali tenutesi ieri. Arrestato nella notte, questa invece è l'Italia, nuovo capo mafia di Palermo, considerato l'erede di Lo Piccolo. E riprendiamo dai temi ambientali e dalla giornata mondiale dell'acqua. A Ravenna 225 sindaci dell'Emilia Romagna si sono impegnati a promuovere il consumo dell'acqua del rubinetto. Lo hanno fatto sottoscrivendo con ERA, Multi Utility del settore, il manifesto dell'acqua dai sindaci. Il sindaco di Imola, Daniele Manca, al microfono di Laura Bettini. L'acqua è una risorsa straordinaria dei cittadini e dunque utilizzata correttamente e con gli elementi di appropriatezza necessari può rappresentare una fonte di contenimento di costi, ma anche una grandissima ricaduta sull'ambiente. Quindi è una sfida culturale tutto questo. Questo comporta investimenti importanti sulla garanzia che l'acqua sia di grande qualità, investimenti nuovi e rilevanti che attraverso ERA noi stiamo realizzando. Nel suo comune cosa cambierà da oggi in poi? Cominceremo ad introdurre in tutti gli spazi pubblici gli erogatori in modo tale da evitare l'acquisto di acqua in vetro e in plexiglass, in plastica, in tutte le attività, in tutti i servizi pubblici. Poi guarderemo anche attentamente tutti i capitolati di gara, perché alla scadenza delle gare per l'approvvigionamento degli alimenti ci sia sempre di più una particolare attenzione a tutto questo. Credo che anche questo vada nella giusta direzione. Spendere meglio e spendere meno, utilizzando al meglio le risorse che, ripeto, sono dei cittadini. E per la giornata mondiale dell'oro blu si mobilitano anche gli artisti. Accanto all'associazione AMREF, per parlare di acqua in Africa, c'è Saba Anglana. Saba è per metà italiana, per metà etiope, nata in Somalia. Il suo ultimo disco si chiama Bio. Letteralmente in somalo, che è la lingua del paese in cui sono nata, significa acqua. E ha questa assonanza molto interessante con la parola greca bios, cioè con vita. E quindi ecco che questa piccola parola diventa un contenitore enorme. Il disco di Saba Anglana è nato proprio durante un viaggio in Etiopia. L'Etiopia non è una terra povera d'acqua, anzi ha un cuore liquido molto nutrito. Tutto questo non significa necessariamente che è un paese in cui l'accessibilità all'acqua sia una cosa semplice. Viaggiare attraverso l'Etiopia significa anche vedere migliaia di persone che fin dalle prime ore del mattino viaggiano con queste taniche gialle. Quando ancora magari noi dormiamo ci sono dei bambini che si svegliano molto presto e invece di andare a scuola vanno a prendere la loro razione quotidiana di acqua. L'incontro con Tommy Simmons, il fondatore di Ambref, per me è stato folgorante. Ho visto nei suoi occhi, nella sua voce, un grande entusiasmo per le cose che fa. Quindi ho creduto opportuno intrecciare la mia voce con quella loro per portare avanti insieme un discorso anche pratico dal punto di vista dell'impegno di chi può veramente donare qualche cosa. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. E ancora ambiente, sentite cosa succede ad Hong Kong. Dopo il giallo ocra di sabato scorso, il grigio ferro di oggi, Pechino si è svegliata sotto una nuova tempesta di sabbia che sta tingendo il cielo e i palazzi di colori bizzarri, aumentando il livello d'allarme relativo alla qualità dell'aria. La stazione meteorologica centrale raccomanda di tenere chiuse porte e finestre, di utilizzare mascherine o sciarpe per coprire la bocca, mentre la situazione sembra ancora peggiore all'altro capo della nazione, a Hong Kong, dove l'indice di inquinamento ha superato di gran lunga i 300 punti, raggiungendo il peggiore risultato di sempre. Ma notevoli problemi si stanno registrando un po' in tutta la Cina, proprio a causa dei forti venti che spirano dalle regioni desertiche dell'ovest e del nord, trasportando nelle città un miscuglio di sabbia e particolato. La Cina, uno dei paesi più inquinati al mondo, sta anche facendo i conti con una forte siccità che da mesi attanaglia le regioni centro-meridionali. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. Israele deve fare scelte difficili ma necessarie per la pace. Quanto dirà oggi il segretario di Stato americano Hillary Clinton davanti alla lobby filo-israeliana che riceverà la visita del primo ministro dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu? Israele-Palestina, entro 2 anni, 2 stati. Ti sembra un'ipotesi fattibile? È quanto vi abbiamo chiesto oggi. Nei giorni scorsi il quartetto, che poi vuol dire Stati Uniti, Russia, Unione Europea e ONU, aveva lanciato un'idea quantomeno ambiziosa per il Medio Oriente: entro 2 anni la nascita di 2 stati, oltre a Israele, la Palestina. Un progetto che per il 61% dei nostri ascoltatori interpellati nel sondaggio di oggi sembra irrealizzabile, troppo ottimistico. Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo e vicina alla causa palestinese, accusa in particolare la politica del governo Netanyahu. Da una parte il muro che ha annesso territorio palestinese ad Israele, dall'altra la crescita delle colonie all'interno, quindi difficile se Israele continua a costruire colonie, che vuol dire portare via terra, acqua, distruggere case. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare. Radio24.it, Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. È l'imam moderato fiorentino Izzedine Elzir, il nuovo presidente dell'UCOI, l'Unione delle Comunità Islamiche Italiane. Sostituisce il più integralista Mohammed Nour Dachan. Anche la lettera del Papa alla Chiesa irlandese, ferita dallo scandalo della pedofilia, sarà fra i temi che il presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco, affronterà nel pomeriggio nel discorso di apertura dei lavori della CEI a Roma. Intanto c'è chi ha criticato la lettera del pontefice agli irlandesi per la mancanza di un passaggio in cui il Papa esplicitamente chieda perdono. Al microfono di Katia Caramelli, il vaticanista Luigi Accattoli spiega il perché e commenta il testo. C'è un passaggio nella lettera dove Benedetto XVI sembra alludere quando dice: sarà difficile per voi perdonare, come dando per implicita la richiesta di perdono da parte dei colpevoli, oppure, se vogliamo, da parte della Chiesa, come già hanno fatto l'Episcopato statunitense, il Presidente dei Vescovi tedeschi, eccetera. Ma lui non lo fa, c'è una sensibilità personale, non ama forme, diciamo così, retoriche, esposizione personale nella penitenza, eccetera, ma c'è anche una ragione di contenuto, ed è che Benedetto XVI, nel suo rigore di teologo, ritiene che la Chiesa possa chiedere perdono come tale per responsabilità collettive, in cui anche i papi possano sentirsi coinvolti, tipo la persecuzione degli ebrei, e su questo lo ha fatto ripetendo la richiesta di perdono di Giovanni Paolo II, ma nel caso dei pedofili ritiene che si tratti del tradimento di alcuni e non della responsabilità di tutti. Quali sono a tuo avviso i passaggi più importanti di questa lettera? Dal punto di vista pratico, l'apertura ai tribunali civili, la necessità di dire tutto, di non nascondere nulla, di collaborare, di trasparenza nei confronti dell'opinione pubblica. Dal punto di vista soggettivo dell'atteggiamento del Papa c'è il riconoscimento che abbiamo a che fare con una crisi di lunga durata. A questa consapevolezza segue una serie di misure, per esempio l'invito a un anno penitenziale e l'indizione di una visita apostolica, che vuol dire una ispezione per fare pulizia nei seminari, nelle diocesi, nelle case religiose dell'Irlanda. Siamo alla cronaca, vendevano in anticipo agli studenti test di ammissione all'Università Magna Grecia di Catanzaro, 5 persone sono state arrestate. E chissà che un giorno non finiscano a fare cose del genere anche i nostri presidi, che per raccattare qualche euro necessario per mandare avanti le scuole si sono dati alla finanza creativa. Chuck si gira e 5 per 1000. All'Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano, ai riflettori puntati ormai hanno fatto l'abitudine. L'edificio dei primi del Novecento viene spesso utilizzato come set per spot pubblicitari, un modo per fare cassa con risorse aggiuntive, come l'idea di chiedere di essere inseriti tra le onlus che incassano il 5 per 1000. Qualcuno l'ha battezzata finanza creativa delle scuole, ovvero l'arte di arrangiarsi di fronte a una situazione contabile che è sempre più difficile. Tra limiti di spesa più stringenti e crediti mai arrivati, presidi e genitori si rimboccano le maniche per restare a galla, destreggiandosi tra le varie voci di bilancio. Aperitivi musicali, raccolta, rivendita tappi, bancarelle, noleggio aule, ma anche spettacoli teatrali. Tutti all'insegna del fundraising per garantire un potenziamento dell'attività formativa e in alcuni casi anche per acquistare il materiale didattico. Un fenomeno che riguarda le scuole del nord ma anche quelle del sud, dalle elementari alle superiori. Chiara Bussi, GR24, Il Sole 24 Ore. A lot has transpired in my life. A lot of ugly things have happened. Quella che sentite è la voce del campione di golf Tiger Woods, intervistato dall'emittente americana ESPN, 4 mesi dallo scandalo che lo ha travolto. Woods ha detto di essersi lasciato alle spalle una vita fatta di menzogne, dicendosi emozionato all'idea di tornare a giocare. Woods tornerà infatti su un campo da golf in aprile in occasione dei Masters USA. E questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Ci risentiamo alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.